Aspetto, Fulvio! Sì, la prova a vedere come arrivo adesso. Adesso dove 25. Lo sono adesso? Sì, siamo in patto. Dove 25. Cosa c'è messo? I radiali c'hai messo? La salita di un bel. Ah, meglio così, se la salita di un bel già avvente. Se ne basta metterci una cantenna, quale problema? Ma sai che provo a fare un passaggio attaccato con l'altro baracchino al volo? Però, guarda. Oh, Ale, quanto sono arrivato adesso? Aspetta, quanto sono arrivato adesso? Uguale. Quanto sono arrivato? 9.20. 9.20? Sì, 9.20. 9.20 sono arrivato. Sì, da poco fa. Da poco fa? Di QFM radio, segnale 667. Con questo 925? Sì. Chiaro. Ah, io anche più forte, non c'è l'altro. Ok, dai, grazie del controllo, Ale. Adesso vado a scuola guida che sono in ritardo. Dai, ce la risentiamo alle prossime. Oh, non si muove nemmeno le stazionarie. Meglio così. Ah, sono l'aula che ti piglia prima. La macchina a casa, dappertanto, c'è la patente della macchina, ma la patente per il 50 non stai facendo. Aspetta, Ale. Ho detto, stai facendo la patente per la macchina o per il 50? La macchina, per la macchina. Ok, dai, io devo scappare. Dai, ce la risentiamo stasera se incurcide, grazie di tutto, Arrivederci, ciao, alle prossime. Ma la radio forte, Ale. La voglia. Ok, dai. Sì, d'accordo, ciao ciao. Normale, mi poco fa sono sceso a 40 in questo magno di Giavuglia. Ma voglio comprare una la batteria, quanto dura? Quanti chilometri fa con la batteria? Dipende quanto pesi. È 80 kg peso. Allora ti dura più di me, perché va in base ai chili, in base alle cose, capito? Alla fine sono leggero, la so pesante. Vabbè, dipende, quanti chilometri puoi fare? Più o meno? Sì, una cinquantina. È buono, ti aiuta molto, dai. Scappa. Oh, mi è uscita un bombone, è uscita Luca. Non si muove nemmeno il coso, le cose rotazionarie. Quindi così? E vado più su, proprio, l'agano, non si muove nemmeno. Se tu dovessi comprare un microfono magari più adattabile alla tua voce, questo già va bene, però magari tipo un MB più 4, così un più 5, lo modifichi, capito? Io c'ho stazionario di brutto, Magari. Ok Luca, dai, mi ha fatto piacere, io adesso vado a lavorare, ce la risentiamo. E certo. Ciao. Questa sera facciamo ulteriori prove, perché adesso mi accorgo che sto uscendo come voglio io. E Luca, va bene a tu. Pagata, poi proviamo più là, da cosa, da compugno 9.25 arrivo. Chiamalo se qua, che qua 9.25, dai. Ma cappa, dai, ce la risentiamo, cambio. E via, ciao. Avanti, buonasera. Che come? Sei sicuro? Vabbè, poco fottuto. Un sciabuco, come va? Drogato, a casa forse stavano un computer. A casa sei. Oh, yeah. Cane morto, a casa. Uscia porco. Non dovevi fare, hai visto cosa ho scritto? Quella tutta roba di amici di Donaldo, anzi amiche di Donaldo, non amiche mie, la verità, e di Giuseppe. Ah, boh, lo so, io alla fine no, non è che mi interessi, non è che mi manca, anzi. Sì, manca a me se per questo, sì, ma non sa niente di quella roba lì, me l'ha mandata lei da me, non è che gliel'ho chiesta io, dice ti mando il filmato, mi ha detto. Ti mando il filmato e poi ti mando il suo video letto. Allora mi ha dato il filmato e il suo risultato gliel'ha già mandato. Ti ha fatto vedere la pucchia? Tutto mi ha fatto vedere, hai visto? Sono due ragazzi, gli altri non chiedo, ma la sotto, non te ne molla l'uomo, non ti fa vedere niente. Aspetta, adesso al telefono un attimo. Via. Io chiama che è basso, avanti che chiama che è molto basso. Basso so, a come? Io sono qui, dimmi tutto. Ma se te ne varia, basso so. Adesso non so bene, ma tu non puoi fare perché? Via. Ma cosa stai guardando, un cadavere? Un cadavere? No, ma sentite in varia. No, perché non ti sentivo quasi lunga mia, per quello che ho detto, ma questo è affuso o cosa? La modulazione è bassa, era perché? Molto bassa la verità, anche segnale. Adesso va bene. Adesso va bene. Ok, dai. Fai una cosa, mettici un'antenna di quella a carbonio, sopra il tetto. Aspetti che arriva il tempo, quando arriva il fumo, a me lo esci in casa di preparazione, dove prende tutti i posti. Sì, e se non ti fumi. Fai tanti minuti, si incende tutto l'appartamento, poi esci. Che ti chiamo i pompini dopo. Cioè dove sei Antone? A casa? Io sono stato a casa, non avevo spia a fare la spesa. Adesso esco, mi levo la birra qui vicino a casa e poi rientro nuovo qua. Rientro. Ma cosa, non ti ha chiamato Marino? Sì, sì, mi ha chiamato. Mi ha chiamato. E tu... se voleva quella cosa lì, lo accompagnavo, non mi costava niente lì da dove l'ho comprato, costato cosa 20 euro, mi sembra 20, 25 euro, ma cosa del genere. E quella cifra lì viene, quelle dei civili. E tutto è più alle volte, un altro anch'io, lo piano una volta lì quelle per wifi, capito? E da lì mettiamo assieme, tutti pigli quello lì e poi tutti prendi quell'altro, non c'è problema. Cazzo è nuvoloso e fa il cacca ancora. Anzi, bucca cacca ancora e fa. Sta bacchettando poco fame, la verità. Sono sceso lì alla Quebec, mi sono iniziato gli preservativi a mettere in bocca. Fino a questa mi fa. E detto, guarda, io ho detto, sto in mano, se mi dà quello che mi regalerà, non costa niente. Detto, mi ha detto, una busta, ho detto, gli ho spiegato in bocca, cosa devo fare? No, oh, non posso farlo. Se non mi becco 4.000 euro. Vado a fare culo, ho detto, guarda, ho lasciato tutto. Già vado a spiegare, fammi la spesa, non si preoccupi, gli ho detto, che forse è meglio. Torno indietro, mi piglio il preservativo e vado allo spiglio, ho detto. Qui a me non mi viene, ho detto. Se questo è un favore, me lo sono dimenticato per sbaglio, non è che capita ogni giorno, ogni 15 giorni, no, cazzo. Non costava nulla al limite fare una cosa del genere, cioè pigliava la cosa, metteva dentro la busta, gli davo sconti, come si chiama, i soldi in contanti, mi faceva lo sconti e me lo andavo a casa, no? Invece, beh, oh, no, io risco 4.000 euro, vaffanculo. È fatto bene, perché la gente prende molto, molto per il culo. Sì, ma questa storia del coso no, non ha voglia di fare un cazzo. Se tu vai a coso, all'Inps, cosa vuoi, sono tutti malati per coronavirus, sono, capito? Non trovi nessuno all'ufficio. Tutti malati sono, se ne stanno a casa, capito? Se vengono 3-4 mesi, 6 mesi di coso, se mi sono a telefonare all'Inps, dopodiché ti fanno la documentazione a casa loro, capito? Con computer. Ammacchi. Sì, vabbè, cosa devi fare? Cosa devi fare? Il mondo è fatto di furbi. I furbi. Avevo ammazzato a quei quattro, non quattro, sono una cinquantina, insomma. L'avevo preso, l'avevo messo all'asilo, l'avevo messo in quarantena. Stato tranquillo, in discoteca non ci sarebbe andati più in Sardegna, sto dicendo io. L'avevo preso, cioè, ha preso per la mia Sassari, sulla Sassari, in quarantena all'asilo l'avevo messo, in mezzo agli altri, da soli. Queste sono le medicine, arrangiatevi. Ma dove stai andando, Antonio? 857? Sì, io. Ma ce l'hai troppo vicino alla bocca, un po' incubato, sì. Adesso va meglio, ho cambiato il tono. Adesso va meglio, prima era troppo pastoso. Ah, vabbè, ok, adesso va meglio, allora. Solo che per me ci vuole l'altro, e vedete se ci vuole questo. E quale? Dalla 27 alla primavera c'è una bella differenza l'uscita media audio. In 27 c'è basso, ce lo so. E appunto per quello. E quindi la questione è quella. Io l'ho mandata a Paco, ce l'ho mandata. E tu tieni i 4.000 euro, gli ho detto, a me non mi vieni più a comprare roba qua. Vado contro Santa Maria e gli ho detto che mi conviene di più, a me lo entro e sono tranquillo. E dove sei andato a fare la spesa? Se vi ha riportato dove sei chiuso? Devi andare lì dove c'è l'Eurospi di dove c'è il coso, di fronte a Mouse, l'hanno chiuso e l'hanno spostato un po' più avanti. Oh. Sono andato da cosa, va? Sono in ballo, Simo. Aspetta, dove vai? Torino, ci sei? Vabbè, ti chiamo dopo, sto uscendo un attimo con Simo, là. Vabbè, se l'ho lanciato qualcosa, già ti chiamo fra un po'. Sì, vai pure, tranquillo. Ok, a fra poco. Ora. avanti il musichiere, avanti il musichiere, guarda che la radio ce l'abbiamo tutti, avanti il musichiere, avanti il musichiere, bubu. Ma sei diventato faccio rosso? Avanti musichiere, avanti quel suonato. E pare che ha suonato. Ciao, ciao, ciao, ciao Fra. C'era uno che faceva musichiere, ma si vede che sei rimasto male, che poi non capisco per quale motivo. Perché sta rimbalzando da 10 al 23. Poi di nuovo sul 10. Forse sta cercando qualcuno, ma se vuole trovare qualcuno deve fare CQ, non ha ancora capito. Se è così molta gente so che non vuole entrare, non entra quando sente così. Perché è abituata un po' alla vecchia guardia, diciamo. Là. Infatti, lo so, purtroppo. Sì, ma sinceramente non riesco a concepire questo fatto, rimanere all'ascolto, mandare anche musica, ma quello non sarebbe un problema, anzi potrebbe essere anche il richiamo più o meno relativo a quello che può essere CQ, possiamo anche considerarlo in quel modo. Ma è inutile stare davanti lì al baracchino se poi quando ti chiamano non entri. Ma perché? Non riesco a capire questo, veramente, guarda. È un rebus. Oh, Giofra. Perché vuole usare la radio ma non c'ha argomenti per usarla, tutto lì. Ma noi ci siamo anche cretinate, basta che si faccia radio, non è un problema. Certo, tia. Quello che non accettiamo è la maleducazione, basta. Poi per il resto va bene, ognuno è prima quello che sa fare, non ci riguarda assolutamente. Vuol dire, poi ce ne faremo un concetto di tutto e di tutti, di quelle persone che parlano. Infatti, io ho sentito anche una stazione piccola che forse stava chiamando, ma poi la musica lo copriva, non l'ho dato neanche davanti. Ma vabbè, è così. Comunque Giulio, per una cosa ti devo dare ragione, ho fatto degli esperimenti su una che ho trovato lì in mezzo al Caravaggio. Non ci ho perso neanche un esatto rispetto a portarla a un valore accettabile, ma tenaci via. Poi ho avuto l'idea, dato che ho l'attacco in macchina, di metterla a posto di quella VHF, no? VHF, e l'ho collegata. Beh, stazionaria pressoché 1.1, 1.5. Perché? Perché era collegata a massa. Sì, ma è più che risaputo. Secondo me la magnetica non può essere assolutamente efficiente nella maniera più assoluta. Perché? Perché è una cosa che si trasmette, ma è un contatto sì, ma tramite induzione. Per cui non capisco come si possa, vabbè, ognuno chiaramente usa gli strumenti che ha e è quello che vuole, non c'è dubbio. Però io sono sempre stato convinto che l'antenna magnetica non potrà mai, assolutamente mai, essere valida come quando la macchina è bucata con la eccetera eccetera, premesso che ognuno la macchina se la gestisce e se la usa come crede, ci mancherebbe altro. Però io ho sempre detto, per me, per mettere l'antenna magnetica, preferenza mi compro il supporto da mettere nello sportellone di dietro, anche se non è centrata perfettamente per poter avere un piano di massa. massa regolare, come quando è al centro l'antenna, però è sempre meglio di avere l'antenna magnetica, secondo me. Io l'ho preso così, poi può darsi anche che mi stia sbagliando, no? Non è che sono un genio, sia ben chiaro, ci mancherebbe. Sì, io posso parlare solo per prova pratica, perché l'argomento che avevi preso qualche settimana fa mi ha incuriosito, perdiamoci un po' di tempo, l'ho messa sulla cosa magnetica, ho detto questa è da buttare, ho provato a fare varie tarature, allungarla, accocciarla, niente da fare, proprio nulla. Poi ho fatto l'esperimento classico di collegare, dato che l'analizzatore stesso non è a massa ma è bensì come un portatile, quindi l'ho collegato l'analizzatore alla massa della carrozzeria e ho visto che subito, immediatamente l'antenna ha risposto, anche se era collegata all'estremità, quindi al PL. E poi ho fatto la prova, diciamo, regina, che quella di collegarla proprio all'antenna che era a massa, e di lì si è visto subito che stazionare è molto basso, larghezza di banda notevolmente aumentata e quindi tutta un'altra cosa, capito? Poi ha raggiunto le impedenze giuste e tutto quanto. Ci sono molte antenne, soprattutto quelle caricate, quelle che hanno la bobina, che con la cosa lì, con la cosa magnetica non vanno molto d'accordo. Ma assolutamente no, assolutamente no. Ma è così, ripeto, uno è un contatto così solo per il magnetismo, l'altro è il contatto diretto con la col piano riflettente che ti può dare la macchina, ci mancherebbe altro. E io l'ho sempre pensato, per cui ripeto e continuo a insistere. Tante volte lo stesso dicono e vendono, tra l'altro, questi negozi, ma antenna 5 ottavi per la macchina. Ma poi io quando calcolo la lunghezza fisica dello stilo, ripeto, dello stilo, non di tutta l'antenna, che poi viene completata, la lunghezza dell'onda viene completata con la bobina, ma la bobina è sempre un fattore negativo agli effetti della lunghezza d'onda, perché io dico questo, se l'antenna è lunga 60 cm, come certe persone dicono, io ho l'antenna 60 cm, magari è un quarto d'onda, un mezz'onda, no, vale solo, se ce l'hai da 60 cm è un ottavo d'onda, perché basta fare i calcoli ed è facile capire. Ma la gente dice no, ma questa la vendono così, ma la vendono così, ma intanto il resto dell'antenna, quello che completa la lunghezza fisica dell'antenna è la bobina, ma è un fattore passivo, non ha niente da dare in più di quanto può dare la sola assa, diciamo così, il solo polo caldo, cioè la frusta, insomma, ecco, vai Giotta. Sì, ora no, l'antenna può essere anche un quarto d'onda o anche una collineare, per carità, però la differenza sta nel fatto del rendimento, ecco. Tu puoi fare anche un'antenna, non so se l'hai vista, con le CB, dei discesi portatili, che è addirittura più corta di quelle VHF, però c'è una bobina dentro di filo fino, lunga, che praticamente è un mezzo a carico fittizio, quindi sì, la puoi fare anche un quarto d'onda con la sua bobina, ma è sicuramente una cosa differente da un'antenna senza bobina, alta 2 metri qualcosa, ecco. Poi la bobina l'ideale sarebbe al centro, tra virgolette, la fai una bobina piccola, insomma, più distante non influenza, ma queste bobine lì della 27 sono una cosa micidiale, sono abbastanza lunghe. E per fare quelle antenne, insomma, dentro ci sarà almeno un 70-80 cm di avvolgimento, ecco. Ma anche di più, sicuramente di più, perché bisogna sempre raggiungere la misura fisica, bisogna sempre raggiungerla. Ma se uno stilo è corto ci sarà più bobina, se è più lungo ci sarà meno bobina. E la bobina, per quanto ne so io, è sempre un piano di massa e basta, ma niente di più. Chi ti dà la potenza reale è sempre lo stilo, non mai la bobina. Perché? Perché la lunghezza fisica più lunga è più hai resa nell'antenna. Perciò non riesco a capire come tante volte anche le fabbriche dicono antenna da 5 ottavi. Supponiamo, io per molti anni ho avuto la PLC 800, ma la PLC 800 era lunga 1,30 m, una cosa del genere. E io sono convinto che quella al massimo poteva essere, se no, visto e considerato la qualità dell'antenna eccetera, si poteva paragonare a un quarto d'onda, ma non a un 5/8 d'onda, perché io parto sempre dal principio che l'antenna si misura sempre nel polo centrale, cioè nell'assa, non mai nella bobina. La bobina per me è sempre un fattore passivo, io la penso così, può essere che mi sto sbagliando io, però ne sono fermamente convinto. Ma la bobina indubbiamente fa un effetto, diciamo, di attenuazione, quindi c'è poco da fare, sempre rispetto a un'antenna diciamo a tiro estesa, che ovviamente ha ben altri guadagni anche, perché non c'ha l'ingombro della bobina. È comunque impensabile mettere su mezzo un'antenna di 2 metri, dunque quanto era, la 27-11 metri, insomma sono la bellezza di 2,5, saranno 2,60 di lunghezza, vabbè che poi c'è la riduzione solita, fai che siano anche 2,50, ma è impensabile mettere un'antenna di 2,50, anche se fosse stilo molto fino, capito, di quello molto flessibile, perché è molto antiestetica, quindi si usa gioco forza la bobina. Poi dipende da quanto è fatta bene anche la bobina, perché le bobine hanno un fattore anche di qualità in base a come sono fatte. Non penso che sulle antenne che vendano si dedichino molto a queste cose, ecco, le fanno giusto per avere quello stazionale, poi basta, finito. Sì, premesso che è assurdo portare un'antenna lunga che dovrebbe essere per la macchina, se fosse da un quarto d'onda, lo stilo sarebbe dovuto essere intorno ai 2,75 m ridotto, poi per il fatto di quello che si perde tramite il materiale eccetera, intorno dovrebbero venire intorno ai 2,64 m. Però è quello che dico io, non mi puoi dire che un'antenna lunga 2 metri e 64 centimetri possa essere da 5/8. No, io la considero da un quarto d'onda, la considero, perché basta fare i calcoli, io la considero da un quarto d'onda, poi loro, chissà perché, per fare pubblicità, per vendere, eccetera, magari le vogliono dire questa qui è da 5/8. Non è vero, io dico di no, perché quando si fanno i calcoli, sempre, velocità della luce per la frequenza eccetera, balle varie, mi risulta sempre la lunghezza fisica, mi risulta di un quarto d'onda, anche perché supponiamo il caso, allora io posso fare il confronto in questo caso con l'antenna di base, no? Ad esempio l'antenna di base che è lunga 6,90 m, una manta batturbo, se una manta batturbo è lunga 6,90 m, 7 metri, 7,10 m, non lo so di preciso, quella si può considerare una 5 ottavi. Perché? Perché facendo il conteggio sempre in base alla matematica della fisica, quella risulta 3 quarti d'onda, cioè 5 ottavi d'onda, ma non 2,75 metri 5 ottavi d'onda. Ecco cosa intendo io. Io boh, non lo so, stavo sbagliando, non lo so. No. L'unico errore che ci può essere è quello che loro contano 5 ottavi, un quarto d'onda in base alla carica, ai valori che c'è la carica, però è inevitabile che la carica che avrai assuma poi quei difetti che tutti conosciamo. Non ultimo quello di dover stare attenti anche in auto, perché io ho fatto anche quell'esperimento, avvicinandoti e allontanandoti dall'antenna, secondo che bobina c'ha, inizi già a vedere i cambiamenti diciamo anche di SQR, perché l'antenna diciamo c'ha delle variazioni, quindi insomma i fattori sono tanti, Giulio. Alla fine l'importante è arrivarmi. Ah sì, quello sì, non ci sono dubbi. Beh certo, loro calcolano alla lunghezza fisica, sì, ma quello che voglio dire io è questo, perfettamente d'accordo, uno costruisce l'antenna e appunto con la bobina facendo poi il calcolo risulta a quella lunghezza d'onda. Sì, ma è inutile che mi risulta a quella lunghezza d'onda, l'antenna che ha uno stilo di abbastanza misero come lunghezza non me la puoi considerare. Perché? Perché io sono sempre dell'idea che la bobina è sempre la parte passiva dell'antenna, per cui la resa non ci sarà mai, non ci potrà mai essere. Dunque più lunga è più rende, meno lunga è meno rende, è ovvio. Quello, tutto il ragionamento che ho fatto io è quello, premesso che poi si può considerare l'antenna di 5 ottavi d'onda, però sempre con tutto il resto della bobina, più o meno stile, questo sì, però quello che conta è la resa, se non c'è stile, non c'è resa, non c'è niente da fare. Vabbè, c'è anche da dire una cosa, tutto in dipendenza dalla frequenza, perché sai benissimo che ci sono antenne che hanno diversi comportamenti, non sempre è vero che più lunga è più efficiente, cioè di norma dovrebbe essere più efficiente, però sempre in base all'uso che ne devi fare. Io ho notato ad esempio che per quello che riguarda il VHF ci sono delle posizioni d'antenna, quindi antenna corta che magari va molto meglio in città, l'antenna lunga, magari molto lunga, che è fatta per andare a distanza, c'è un lobo di trazione completamente diverso e quindi si sente da lontano, ma magari poi c'ha degli scarsi rendimenti e da vicino in certe zone magari che rimangono un po' più coperte rispetto a un'antenna bassa. Poi parlando di HF ci sono ad esempio le antenne su certe frequenze cosiddette NVIS che si usano per l'emergenza, che addirittura si mettono un raso terra proprio per permettere alla lunghezza d'onda di rimanere attaccata a terra e di fare quei 300 km all'incirca che sono utili tutto lì. Sì, quello sì, senza dubbio, ci sono anche c'è da anche considerare quel particolare lì, certo che è così, ma un po' tutto, perché si sa, lo sappiamo che stabilire effettivamente la resa di un'antenna dipende da tantissimi fattori, ovvio, no? Questo sì, tante volte noi diciamo anche l'antenna più alta la piazzi e più ti rende, dipende da quello che vuoi ottenere, perché non sempre si deve dire così, non sempre, nella maniera più assoluta, perché bisogna vedere se tu mi installi un'antenna ad una certa altezza rispetto al piano riflettente, che può essere quello per dire sul tetto, tanto per fare un esempio, o il terreno, si può avere più resa o meno resa. Perché? Perché le antenne sono costruite anche in base ad una certa altezza, collocate ad una certa altezza. Ad esempio, prendiamo l'antenna che abbiamo noi, la Game Master. La Game Master, per avere la resa massima, ripeto, la resa massima, che poi è in lontananza praticamente, non tanto il locale non molto, ma in lontananza, ha bisogno che sia dal terreno, o meglio dal piano riflettente, almeno di 5 metri, oltre agli ostacoli che ci possono essere attorno, eccetera, eccetera. Mentre invece ci possono essere anche dei momenti che, mettendola più basso, proprio per il basso raggio di emanazione delle onde radio, che può anche funzionare meglio. Dipende, si tratta di vedere cosa uno può anche fare, cosa vuole fare anche per questo. Vabbè, non è che voglio entrare nei particolari troppo tecnici, perché non mi ritengo all'altezza, però è così, un'antenna che è messa a 5 metri dal tetto può essere inferiore come qualità di resa con un'antenna messa magari, che so io, a 3 metri, e perché no? Dipende dal tipo dell'antenna, c'è anche questo particolare. Eppure tutti noi diciamo l'antenna più alta è meglio funziona. Beh, in linea di massima è così, è vero, in linea di massima sì, però bisogna vedere l'individuo che cosa vuole fare, che cosa vuole ottenere. Io ho ragione in questo modo, Gianfranco. Sì, la mia ad esempio è all'incirca a 11 metri da terra, più o meno, anzi sicuramente di più, fa anche 12, che non è un'altezza piccola, però a 20-30 metri ci sono degli alberi un pochino più alti, e oltre non si può andare, quindi per superare questi alberi. Verso di te, ad esempio, c'è Monte Oro, però considerando la frequenza, considerando tutto, riesce a passare meglio. Ecco. Anzi, se vuoi vi faccio una prova con un'antenna, diciamo, che è a terra, ma proprio a terra sul serio, perché è a circa un metro dalla terra, con dei radiali che sono sottoterra addirittura, che serve per l'HF. Se voi faccio una prova qua e vedrai quanto perde. Prova, problemi non c'è solo. Sì, beh certo, non ho detto che deve essere assolutamente, ho detto che ci possono essere delle situazioni, un po' per la conformazione del tetto, un po' per la zona dove ti trovi, perché magari sei circondato da tanti ostacoli di altre case, un po' perché magari stai trasmettendo con uno che è al di là di una montagna, come può essere Monte Oro. Questo sì, tutte queste cose sono da tenere in considerazione, certo, ma supponiamo che in campo libero potrebbe anche essere, ad esempio, l'antenna che ho io è a 2,50 m dal tetto ed è uguale a quella che hai tu, la Game Master. Eppure so benissimo che l'antenna io la dovrei mettere almeno a 5 metri per avere la massima resa, per poter avere un lobo più profondo. E tutto lì, scusami che c'è il telefono. Sì, ok, vai. Ciao Gianfranco, sono tornato, scusa. Sì, guarda questo segnale allora, tienilo un po' a mente relativamente, che adesso il commuto è proprio senza neanche sganciare la pompante, vediamo cosa succede. Sarà sicuramente molto molto basso, sto per commutare ora. Eccoci qua, adesso sono con un'antenna che è praticamente attaccata a terra, è un'antenna a larga banda con un accordatore conatale alla base. Ripasso adesso con la Game Master, vediamo un po' la differenza. Eccoci qua, di nuovo con la Game Master. C'è differenza? Beh, sicuramente la differenza c'è, è anche tanta, perché da 9 si è passato a Santiago 4, la radio era sempre buona, sempre, sì, questo sì, però ripeto, c'è da considerare un'infinità di cose, ad esempio dove sei tu e dove sono io sono praticamente ai piedi di Monte Oro. Per me scavalcare Monte Oro è un po' un problema, non credere che sia, ma sai perché è un problema? Perché sono troppo vicino a Monte Oro, per cui è come fare un salto in alto, un salto, come dire, se tu ti metti sotto l'ostacolo, fai il balzo per saltare, che so io, una certa altezza, non ce la fai. Se invece prendi la rincorsa, ti metti da più lontano, quell'ostacolo sempre alla stessa altezza riesci a scavalcarlo. E così io considero più o meno la funzionalità delle onde radio o già fra. Sì, sei stato coperto per un pezzo del passaggio, ma non l'hanno fatto apposta. Va bene, se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Lo vedo un po' difficile che possa entrare Giulio, anzi mi auguro che non entri mai, perché era l'elicottero del 118 che c'ha qua l'aerovia, quando passa abbastanza basso e fa un bel po' di rumore. Ah beh, allora è tutto un altro discorso, non pensavo che era qualcuno che si era sovrapposto alla mia moderazione. Eh beh, certo, l'elicottero chiaramente, potevi farlo atterrare lì da te, non c'è lo spazio. Sì, spostando qualche macchina atterra tranquillamente, qua c'è un ettaro, quindi tu pensa che dove sono io ci atterra anche 3-4 volte al giorno, non dove sono io qua passa solo, ma dove atterra, dove lavoro, ce l'ho proprio vicino. Tu pensa che mi muovo anche i cappelli che non ho, devo dire che sono bravi, perché non è molto grande il campo d'atterraggio che hanno, ci sono anche pali della luce, diciamo, però sono proprio, arriva, boom, e atterra in un baleno, una cosa veramente notevole. Infatti lo guardiamo sempre perché è spettacolare come gira e come atterra di colpo. Deve essere molto bello viaggiare in elicottero, deve essere molto bello. Ma un giorno mi trovavo a lavoro, quando è un paio d'anni fa, 3 anni fa, dai, una cosa del genere, e sento squillare il telefono, dice babbo, se indovina dove sono, non lo so dove si sia, a lavoro, sì, sono a lavoro, ma sono sull'elicottero sì. E cosa ci fai sull'elicottero? Vabbè, con la protezione civile, dice, siccome ha lavorato con la forestale, eccetera, e collabora sempre con la forestale, e lei era nell'elicottero, dice, abbiamo atterrato, dice, sul monte Limbara, siamo andati a aprire lo sportello e non c'era spazio per aprirlo perché c'era la neve. Ti puoi immaginare, Giofra? Sì, infatti. Comunque sono in gamba questi che pilotano, sono veramente in gamba, devo avere un occhio, guarda, perché è molto molto pericoloso come atterraggio quando è così in città, in mezzo ai palazzi. Sì, beh certo, è ovvio, sono addestratissimi, è gente molto ma molto preparata, no? E beh, vorrei vedere, dare un elicottero in mano a chi, se uno non è bravo veramente, certo. Sì, appunto, ma il giorno, ma sicuro, caspita, dice, però mi viene ad atterrare così questa cosa, fai fretta ad atterrare, gli ho detto. Siamo in perlustrazione, siamo, dice, siccome, ripeto, lavoravo a tempio con la forestale, no? E dunque, e collaboro ancora, sempre, perché mia figlia è il dottore agronomo, no? per cui queste cose le ha vissute, diciamo, Infatti, va bene così. Per dire, io ho trovato l'elicottero, mamma mia, mi avviva. Sì, no, è molto bello. Ce ne sono due, tra l'altro, che atterrano. Uno è quello che arriva da Urbia, molto spesso, no? E atterra da noi lo stesso. Che è bellissimo, ma Gustav Westland era il 139, se non ricordo male. Quello che è passato adesso invece è l'altro, quello che è Alghero, che è un Airbus. un'azienda europea, e quindi quando invece di oggi è tutta italiana, è proprio dell'Augusta, ex Augusta, adesso Leonardo, è grande, quello è formidabile, quando arriva quello lo riconosci subito. Ok, anche qui dove abito io tante volte passano, perché praticamente è nella stessa direzione per poi passare sopra a dove sei tu, soprattutto quando fanno qualche ricerca, qualche malintenzionato che è scappato, eccetera. Passano sempre qua gli elicotteri sopra casa, così. Oppure, non so, forse sono di quegli elicotteri che scattano le fotografie dall'alto anche, per vedere se qualcuno sta facendo qualche costruzione abusiva, eccetera. Tutte queste cose le fanno loro, questi controlli. E vabbè, e così avevano scovato la famosa costruzione allora, quei tempi di Berlusconi, quando aveva costruito sul mare praticamente, ma è tutto un altro discorso. Era stato scoperto proprio perché avevano visionato dall'alto, così con l'elicottero, eccetera, eccetera. E va bene così, dai. E forse solo quello che ha combinato. vabbè, sì, passa anche quello, qua è passato parecchie volte, poi non l'avrò, figurati, con quel pallone sotto, con la telecamera, sempre fotografando, poi si abbassa moltissimo, è proprio, come fotografa quello ti fa un ingrandimento, se c'è qualcosa che non va se ne accorgono subito. Micidiale. Intanto volevo chiederti una cosa, siccome so che tu leggi molto il giornale, in questi giorni ho sentito parlare di Messina, però non ho capito se l'hanno catturato oppure se ancora non siamo notizie, perché l'ho sentito avanti ieri, credo, Messina, non so che cosa, però poi non ho avuto il tempo di ascoltare per intero la notizia. E ogni tanto c'è una notizia, però sono tutte notizie fasulle, perché io ho letto addirittura proprio qualche giorno fa che ci sono 80 poliziotti che lo stanno cercando un po' da tutte le parti e ancora non sono riusciti a trovarlo. Chissà dove è finito quello, ben nascosto veramente, ma sicuramente anche protetto, è protetto da qualcuno, oppure lui si aveva preparato perché sapeva già della condanna che gli avrebbero dato, che poi è assurda secondo me, dare 30 anni a un uomo di 80 anni è assurdo, cosa gli dai? Le stai dando la pena di morte. Sì, capisco quello che ha fatto, cioè, indubbiamente deve essere condannato, ma non gli puoi dare 30 anni, ma dagli 10 anni va bene. Invece no, se gli dai 30 anni lo hanno invitato praticamente a scappare, perché chiaramente lui ha subito pensato, con quella pena lì praticamente io muoio in carcere, e allora lui ha pensato bene, secondo la sua testa, di scappare. Chissà dove si è nascosto, gli altri. Ma diciamo che data l'età, il motivo della pena è stato anche un altro, che lui ha tradito, capito? Ha tradito la fiducia anche del Presidente della Repubblica, che a sua volta aveva dato la grazia. Quindi sai com'è? C'è la grazia, poi continui a fare il furbetto, e quindi è ovvio che poi succede quello che succede. No, una cosa interessante è piuttosto vedere tutti questi personaggi che praticamente hanno buttato via la loro vita, perché dovunque sia, magari poi alla fin fine lo troveranno in qualche grotta mangiato dalle volpi o dai cavi. Però insomma, a quell'età, Giulio, ma dove vuoi andare a quell'età? Per quanto ci sia la salute, eccetera, tu sai benissimo che poi non sei un ragazzino, inizi a patire il freddo, a essere sempre agitato perché al minimo rumore pensi che sia la polizia. cioè bisognerebbe chiedere a questa persona, ma alla fine della tua esistenza, perché di questo poi stiamo parlando, ne valeva la pena? Hai ucciso persone, hai sequestrato persone, hai avuto una vita, diciamo così, sempre in fuga, ma poi ne valeva la pena? Arricchito o non ti sei arricchito? E anche se ti arricchivi, eri sempre un poco in pratica. Beh, indubbiamente è stato un deficiente, avete considerato che da Ciampi aveva ottenuto la grazia e doveva comportarsi in maniera civile, soprattutto perché non aveva più l'età, e non ha più l'età per fare il filibustiere come ha fatto prima, non va bene, non ha più i 27-28 anni quando era scappato, mi sembra che avesse una cosa del genere, quando era scappato da Sassari, non puoi tu continuare a fare una vita del genere, capita, anche se ormai intanto perché sei sempre adocchiato, non è detto che se ti hanno rilasciato, che ti hanno dato la grazia, che sei libero, eccetera, non è che sei esente dai controlli, sei sempre nel doppio del ciclone e dunque sei sempre sotto controllo, magari tu non te ne accorgi, però c'è sempre qualcuno che ti controlla, messo apposta per controllarti, cioè le forze dell'ordine. Lui ha fatto malissimo, indubbiamente, premesso che ha fatto malissimo anche dal primissimo momento, quando era scappato dal carcere di Sassari, perché per me un evento del genere non merita nemmeno di vivere, e io non è che voglio essere così cattivo, però uno se poco ragiona in maniera obiettiva, un evento che ha fatto male come ha fatto lui, che ha anche ucciso, merita la stessa sorte. Per cui, però, 30 anni, adesso ho 80 anni, per il freddo, come dici tu, la solitudine, gli acciacchi, perché si sa quell'età acciacchi ne hai, perché ti arrivano per forza, là, tutti arrivano. Non capisco come mai lui abbia avuto questo coraggio di scappare. Lui vorrebbe trattare con lo Stato, ma tu non puoi trattare con la giustizia, perché lui vorrebbe fare scontare la pena, ma ai domiciliari. È troppo comodo così, è vero? Vabbè, ai domiciliari, ma non è uomo da domiciliari, l'abbiamo capito tutti. Quello oramai, ripeto, alla fine lo cercano, lo trovano, e lo troveranno lì nascosto in qualche buco, in qualche cosa. Ma anche se fosse in qualche casa, che differenza fa? Non è lo stesso agli arresti domiciliari, lo conoscono tutti. Molti oramai degli amici che lo coprivano non ci sono più, perché insomma non tutti sono arrivati a quell'età, e comunque se ci sono vecchi come lui che magari non si possono neanche muovere di casa di quanto fanno male. E quindi è un uomo solo, non è. Guarda, tu immaginati anche tutto Reina, potente, tutto quello che vuoi, assassino, stragista, alla fine davvero viveva dentro un buco, proprio come i topi, cioè, ma quella vita, quindi è una cosa anche di vederla dal punto di vista che alla fine sono persone infelici, persone che non vedono i figli perché sennò li pizzicano, non vedono le mogli, non vedono gli affetti più cari, ma ne vale tutta la pena? Io dico di no. Poi indubbiamente, ma io non sopporto i delinquenti, però ripeto, a 30 anni, cioè a 80 anni, condannano, sì, perché chiaramente se a lui ha smerciato droga e cose varie, però non gli puoi dare 30 anni, io ho preso così, massimo dagli 10 anni, e quando gli ha dato 10 anni alla fine ne ha 80, adesso poi arriverebbe a 90, e cosa può fare a 90 anni? Non può essere più pericoloso nella maniera più assoluta. Sì, oggi piuttosto ho letto sul giornale un tipo, proprio un detenuto, ha aggredito vestito una guardia carceraria e gli ha musicato il dito, il mignolo, a questo punto gli ha staccato il mignolo a Mussi, sembra che questo dito lo abbia anche ingoiato, perché non si è trovato, per bloccarlo hanno dovuto intervenire 7 guardie giurate, cioè 7 guardie carcerarie, per poterlo bloccare, se no magari colui l'avrebbe anche ammazzato, l'avrebbe, e questo lo devono adesso portare a Sassari, se non l'hanno già portato qui a Bancali, si può immaginare, bella storia anche quella. Diciamo, purtroppo questa gente esiste, basta vedere quelle due bestie lì, hanno ammazzato il ragazzino a calci, a pugni, già conosciuti, è dato dal quartiere, gente violenta proprio. Adesso metti pure che le diano 10 anni, che si facciano 10 anni di calcio, cioè che è poco, perché lo potrebbero dare l'ergastolo. Però dopo 10 anni in carcere quanto s'hanno bruciato. Cioè si pensa solo al numero degli anni, ma non si pensa a come si passano. Chi ci lavora mi ha detto che il carcere non è così bello come molti dicono, è anzi brutto, e insomma è una cosa proprio di sopravvivenza, ecco. Quindi si hanno giocato la vita per dimostrare che cosa? Che loro sapevano lottare, sapevano prendersela poi con chi? Con un ragazzino, ma perché non si trovano uno che è grosso quanto loro, magari anche più forte? Sono dei poveri vigliacchi, neanche se ne rendono conto, dei miserabili. Sì, quelli sono proprio dei veri violenti. Soprattutto perché praticavano lo sport, quel pugilato che poi si usano anche le gambe, eccetera, i calci, eccetera. E dunque sono due fratelli che erano praticamente dei pugili, praticamente gente abituata a picchiare, e te la prendi con questo ragazzo così, poi c'è modo di picchiare anche le persone, non assolutamente. Io capisco, ci può essere un diverbio, eccetera, però c'è modo e modo anche di picchiare, ci sono quelle persone che sono proprio delle persone crudeli, proprio che vogliono vedere l'avversario morto per terra, e così non va bene, quelle non sono persone, quelli sono degli animali, nel vero senso della parola, l'animo, hanno l'animo dell'animale, niente di più. È così. Chissà se in quell'ultimo attimo a cui tutti siamo chiamati ne apparirà un ragazzino, e si è fatta perdonarlo, ma non, poi di lì, per chi crede perlomeno, ci sarà una giustizia ben diversa. Certo, purtroppo è così. Poi naturalmente ci sono anche delle persone violente che non vengono condannate a dovere.